donna è nobile, qual piuma il vento muta d'aceto e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, impianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma il vento muta d'aceto e di pensiero. Pensier.